È nato anche da una mia curiosità, nel senso che sono anni che faccio questo mestiere, però nella pubblicistica, se tu guardi dall'ARA, trovi nel 1934 diventa presidente del Bologna, che poi non era esattamente così, c'era una commissione in cui erano più di uno, però pian piano lui ha preso subito le redini della società e uno a uno gli altri si sono eclissati, è rimasto da sole, quindi è diventato a tutti gli effetti presidente. Però ecco, la cosa che mi incuriosiva era il fatto che si sapeva tutto dal 34 in poi, e io mi sono chiesto subito, ma dall'ARA prima, cioè lì come ci è arrivato a poter prendere il Bologna, che cosa aveva fatto, come era cresciuto prima, e quindi c'è anche tutta questa parte che riguarda poi soprattutto la sua infanzia, la sua adolescenza a Reggio Emilia, perché lui, non dimentichiamo, è di Reggio Emilia. Insomma, si scoprono un po' di cose, anche il fatto per esempio che i geni dell'imprenditoria glieli ha trasmessi probabilmente sua madre, che è rimasta sola, rimasta vedova, aveva 4 anni dall'ARA quando il papà è morto, si è inventata un mestiere di imprenditrice a Reggio Emilia e quindi gli ha trasmesso qualcosa, insomma. Dalla provincia fino ad arrivare a presiedere il Bologna, ed è stato il presidente sotto la cui direzione appunto la squadra ha vinto di più. Beh sì, 4 scudetti più uno, nel senso 4 più quello meraviglioso del 64, che io considero un po' il suo capolavoro, capolavoro che lui non ha visto per 4 giorni, perché come sappiamo dall'ARA è morto il 3 giugno del 64 a Milano, mentre stava discutendo nella sede di Lega Calcio col presidente dell'Inter Moratti, e stavano ragionando di primi partiti, insomma si erano un po' scaldati gli animi, però il problema è che lui aveva già una malattia che stava progredendo, quell'anno era stato male in parecchie occasioni e quel viaggio a Milano non doveva nemmeno farlo secondo il suo medico, tant'è vero che il medico, quando dall'ARA in un estremo gesto d'amore verso il Bologna dice no, io ci devo essere perché il Bologna lo devo difendere in quella sede lì, il medico curante va con lui, quindi fuori dall'ufficio c'era il medico di dall'ARA, perché quindi era evidentemente una situazione pericolosa e preoccupante, ma dico, è stato il suo vero capolavoro, perché mentre i primi 4 scudetti sono relativi a un periodo in cui il Bologna era il Bologna che faceva tremare il mondo, quello del 64 arriva dopo un periodo, la seconda metà degli anni 50, dove il Bologna non è più ai vertici del calcio, insomma fa qualche campionato buono, ma rischia anche la retrocessione in un paio di occasioni, e dall'ARA pezzo dopo pezzo, giocatore dopo giocatore, anche superando contestazioni dei tifosi, arriva a ricostruire un Bologna da scudetto in un momento in cui il Bologna era uscito dai piani nobili del calcio. Ecco, era il periodo delle milanesi, l'Inter aveva un presidente che era un petroliere, quindi dall'ARA era sicuramente in ottime condizioni economiche, però insomma il Bologna non aveva più quella forza di... Lui riesce a ricostruirlo anno dopo anno, nel 64 con Bernardini fa un mezzo miracolo, ripensandoci. Tu ricordavi, dall'ARA arriva alla presidenza nel 34, poi ci sono 4 scudetti successivi in un'epoca particolare. Visto che la presentazione avviene in un istituto storico, ovviamente, ti chiedo anche se nel tuo libro prendi in esame anche i rapporti col fascismo. Beh, soprattutto il libro racconta un po' dall'ARA persona, quello che era, diciamo che è anche diviso in 2 parti, nel senso che prima c'è una biografia di dall'ARA molto lunga, che però ho pensato come autobiografia, cioè lui che si racconta, in modo che un lettore lo vede un po' anche come un romanzo, ecco, e devo dire che la vita di dall'ARA è stata un bel romanzo. E poi ci sono delle testimonianze di personaggi come la figlia di Bernardini, Mariolina, come Rino Arado, che era il secondo portiere, come Romano Fogli, che credo mi abbia rilasciato l'ultima delle sue interviste, purtroppo Romano si è andato un paio di settimane dopo che l'avevo sentito. E poi c'è la famiglia mi racconta il dall'ARA meno conosciuto. I rapporti col fascismo, beh, c'è qualche accenno, nel senso che c'è l'addio di Weiss, quindi la situazione che si era venuta a creare, e c'è soprattutto l'arrivo di dall'ARA, perché dall'ARA arriva al Bologna perché il presidente uscente Bonaveri deve andarsene, insomma, fondamentalmente, perché è troppo legato a Leandro Arpinati, che era, come si sa, un gerarca che era caduto in disgrazia con Mussolini. Quindi Bonaveri se ne va e dall'ARA prende il Bologna in quel periodo. Chiaramente il periodo è quello, dall'ARA si è fatto sempre piuttosto i suoi affari, ecco, non è che è mai uscito complice o particolarmente coinvolto dal regime, e tant'è vero che nel dopoguerra nasce anche una sorta di amore-odio col sindaco Dozza, nel senso amore-odio perché non perdevano occasione per darsele tra a mezzo stampa, per darsi qualche botta tipo un po' alla Peppone Don Camillo, insomma, però poi finivano sempre all'albergo Pedretti di Casalecchio a giocare a carta, ecco, quindi c'era anche questa situazione. Dall'area è sempre rimasto un po' fuori dalla vicenda politica, ha portato avanti i suoi affari fondamentalmente. Il libro ha la prefazione di Joyce Saputo. Sì, che dice anche una cosa molto bella legata al fatto che appunto molte storie di dirigenti del Bologna, a partire anche da Luis Rauch, che è stato il primo presidente del Bologna ed era di Friburgo, e dice appunto, te lo cito, dice: alla fine è vero che bolognesi si nasce, ma è anche vero che lo si diventa, che si sia nati a Friburgo come il nostro primo presidente Luis Rauch, o a Reggio Emilia come il grande Renato, o magari a Montreal come chi oggi ha l'onore di rappresentare questo grande club e i suoi magnifici tifosi. Se ci pensiamo, le grandi storie sportive bolognesi, penso anche alla Virtus che rinasce con Gigi Porelli, che era di Mantova, ecco, nascono da personaggi che sono arrivati da fuori, che sono riusciti poi però a diventare bolognesi, perché come dice il nostro comune amico Giorgio Bonaga, Bologna è una città che accoglie, ma non accoglie soltanto così dando di sé qualcosa agli altri, ma recepisce il messaggio degli altri, probabilmente perché secondo Giorgio, che è professore universitario, ha la fortuna di avere una università millenaria e quindi questa tendenza ce l'ha da un po' di tempo.